finale, avanti, avanti Gianfra, ciao ancora Carlo, buona produzione, vai Gianfra. Sì, ciao Claudio, va Claudio, Carlo, scusa, mi confondo, mannaggia, buon lavoro e buona serata. Avanti Robert. Sì sì, ciao anche da parte mia, buon lavoro, buon proseguo di serata e basta, dai, ci sentiremo alle prossime, grazie del questo, di nuovo Giulio. Ok, va bene. Allora Robert, tutto a posto, sì? Ti stai riprendendo dal dispiacere, suppongo di sì, ma è chiaro, è giusto che sia così, anche perché la vita deve continuare. Dimmi cosa avete fatto, avete già tumulato? Sì, sì, abbiamo fatto veloci, perché il funerale l'abbiamo fatto il mercoledì alle 4 e il venerdì, quindi naturalmente devi avere sempre qualche conoscenza, il venerdì mattina alle 8 e mezza è stato tumulato, l'abbiamo fatto velocissimo, cioè abbiamo messo nella tomba di famiglia, dove c'è anche mia mamma, lui almeno è contento di quello lì, uno al piano basso e l'altro al piano superiore, così sono vicini uno con l'altro. Purtroppo la vita, come hai detto tu, bisogna andare avanti, cercare di sfruttare gli insegnamenti che ti hanno fatto, credo che mi abbia insegnato qualcosa di buono e cercheremo di proseguire con le sue cose e basta. Mi spiace perché è sempre una persona che non è sempre un genitore, però a un certo punto non bisogna essere egoisti, come mi hanno detto degli amici, quando una persona non sta bene, sta soffrendo, bisogna rassegnarsi e basta, lasciarlo andare senza insistere. Di nuovo a te Giulio. Ok, beh, sì, beh, in effetti guarda, sono parole sacrosante, non ci sono dubbi, se una persona soffre, tanto si sa, anche perché c'era una certa età, grazie a Dio la vita l'ha vissuta, la famiglia l'ha formata, ha insegnato quello che doveva insegnare nel modo migliore, ha fatto quello che poteva fare nella sua vita e dunque ha fatto il suo dovere di persona seria, di persona come si deve. Naturalmente mi piace tantissimo perché si sa, oltre al fatto che è un genitore, ma mi piace anche quando è un amico, a me devo essere sincero, mi è piaciuto perché mi è venuto in mente gli anni della mia infanzia, quando praticamente giocavamo al pallone e insieme, lui in una squadra, io in un'altra, e anche se lui era molto più grande di me, però ci incontravamo e per cui sono ricordi che ti lasciano segni, insomma, ecco, indubbiamente sono cose, purtroppo la vita, come ho detto, deve continuare, perché è giusto che sia così. Avanti Gianfra. Sì, beh, purtroppo quello di far parte dell'esistenza di ognuno di noi, per tutti succedono queste cose, l'importante è che chi se ne va se ne sia andato tranquillamente senza soffrire, io penso così, preferirei anche 5, 6, anche 10 anni in meno, però senza sofferenze, perché ne ho viste di troppe persone che soffrire. Ma un argomento un po' triste rispetto a prima, niente, e qua sto notando che c'è un freddo, la temperatura sta abbassando, quindi esco un attimino per chiudere un po' di roba, perché insomma è scesa di parecchio. Non ho problemi. E vabbè, diciamoci un argomento un po' delicato, dai, cambiamo argomento, dai, che potrebbe magari qualcuno rattristare, dai, lasciamo perdere. E cosa ti volevo dire, Giulio, sempre la solita radio, stiamo uscendo alla grande, va benissimo, niente, dai, c'è più, lasciamo un secondino di bianco, vediamo se qualcuno nel frattempo vuole entrare, avanti, su 10 che vuole entrare. L'altro giorno c'era quello, ieri o avantieri mi sembra, questo di Porto Torres, cioè, che ho sentito per la seconda volta, questo Mario, non so se ti è capitato di sentirlo a te Giulio. Sì, sì, l'altro giorno, non so, forse una settimana fa più o meno, ho fatto quattro chiacchiere con Mario di Porto Torres. Sì, arrivava bene, arrivava. Per cui non, io avevo il microfono troppo basso, in un altro momento mi aveva detto che mi sentiva poco, allora ho aumentato più il microfono, praticamente l'ho messo come adesso e allora già mi sentivo abbastanza bene anche lui. Sì, è sicuramente una persona adulta, dunque una persona a modo, per come si è presentato, per come ha parlato quando ci siamo sentiti, la ritengo una persona come si deve, veramente. e sono contento che arrivino delle persone sì, in frequenza. Anche se lui era una persona che da tantissimi anni, perché mi ha detto che era dal 1974 che modulava, infatti te l'ho detto, io ti ho preceduto un pochino di 2 anni, per cui siamo lì. Evidentemente anche lui ha una certa età. Avanti ancora Roberto. No, sinceramente io non lo conoscevo, non l'ho mai, l'ho sentito di sfuggita a pochi minuti, ieri o avanti adesso mi ricordo, l'altra volta idem. Anche se devo dire la radio era chiara, pulita, cioè buona, forte, però si portava appresso il segnale, era quasi 9, infatti 39, tu a 8:00 dovresti arrivare a bomba qua, era intorno a 9 il segnale, però si portava appresso questo fruscio, questo QRM e lì danneggiava un po' la radio, però sicuramente se riusciva a spingere un po' di più la radio era bellissima, molto forte, che ha un 3009 mi sembra, o 6009, adesso mi ricordo, di questi superstar nuova generazione. Sì, qualcosa del genere stava usando, sì. Sì, no, la radio era bellissima, no? No, io lo ricevevo Santiago 7, 7 e mezzo, una cosa del genere, perché si sa, io sono sempre nella valle, per cui sono penalizzato sotto certi aspetti, sia in trasmissione che in ricezione. Purtroppo io sono in basso, no, rispetto a Sassari, per cui come vedi da Porto Torres ci arrivano più forte di quanto arrivano a me, che io sono, non dico a metà strada, ma diciamo molto più avanti e più vicino a Porto Torres di come lo sei tu. Però quello che conta è l'altezza e soprattutto la conformazione territoriale, soprattutto. Vai Roberto. Però devo lasciare, purtroppo è arrivata gente a casa, c'è degli orsi tutti stasera. Dai, ci sentiamo in altre occasioni, se coincide domani. Ciao Giulio, ciao Gianfranco e tutti gli amici qua sul canale 10. Ciao ciao, alle prossime, ciao. Ok, ciao, ciao Roberto, grazie anche a te per la chiacchierata, alle prossime. Aspetto che rientri Gianfranco e poi vedremo se andare avanti o meno. Sì, sono rientrato Giulio, ciao Roberto, buona serata. Alle prossime. Ok Gianfranco, sì. Beh, hai fatto bene a chiudere, comunque a quest'ora è meglio chiudere, soprattutto lì dove abiti tu, è meglio che la casa sia ben messa al sicuro. Io lo stesso, una sera chiudo qua le persiane intorno alle 8, anche se qua è tutto un centro abitato, che anche lì suppongo che ci siano tante case, è abbastanza abitato anche dalle tue parti, però sai com'è, in campagna è sempre più prudente chiudere non troppo tardi le persiane, o già hai fatto bene secondo me. Sì, no, non è una questione di sicurezza, perché qua, a parte che la zona è tranquilla, ma poi è molto molto sorvegliata, quindi qualunque animale, sia a 4, sia a 2 zampe, sia che abbia 4, sia che abbia 2 zampe, viene immediatamente segnalato, visto, eccetera. E poi comunque diciamo campagna, sì è campagna, perché obiettivamente è campagna, però ci sono tante di quelle case distanziate, che ne so, di 200 metri, di 300 metri. Comunque tu figurati che da qua io sento le ambulanze che passano sulla 131, anche se la 131 è a 5 km, figurati quando c'è calma come adesso, se non senti qualche rumore di qualcuno che salta un cancello a 50 metri a voglia, anche le macchine che passano si sentono. Così Giulio, però c'è freddo, è calata parecchio, sono uscito fuori e ci sono già tutte le luci solari accese, figurati, se sono appena le 7:20 e ancora non abbiamo raggiunto il minimo credo che sia il 20 dicembre forse. Sì, grosso modo quel periodo lì, è vero, lo so, sicuramente la temperatura adesso è soggetta, man mano che si va avanti, ad abbassare, ma mi dice mia figlia la mattina esce presto e va a lavorare ad Usilo, lavora oltre che libera professione. professionista che lavora in proprio eccetera, ma fa anche delle ore settimanali a Usilo, nel comune di Usilo, e mi dice quando arrivo lì ci vuole il giubbotto, perché ma è un giubbotto pesante, perché la mattina presto quando arrivi dice freddo veramente, ma veramente freddo, e ancora non siamo in pieno inverno, figuriamoci quando ci sarà freddo veramente, che siamo in pieno inverno, allora come sarà lì? Evidentemente, vabbè, lì è in alto, lo sappiamo benissimo, Usilo è a 600 metri, 620 metri se ricordo bene, sopra il livello del mare, per cui si sente come la mattina. E così mi dice, e così ti dico, Gioca. Sì, ma guarda, anch'io, io stamattina sono uscito di casa alle 6:20 come ogni giorno, quindi mi sono svegliato alle 6, ma c'è freddo, c'è un giubbotto, ho preso il giubbotto un po' più pesantuccio, ma c'è lo stesso freddo. Adesso qua dentro a casa sono a 19 gradi, quindi vuol dire rispetto a ieri che era 21, è sceso parecchio. Piandiamo e più va così. Vabbè, vuol dire che fra poco accenderemo anche qualcosa. O metteremo il numero delle coperte, che è anche più economico. Poco fa stavi parlando di cosa, dalla radio che fa arredamento, da me purtroppo non è così, perché sono tutte sono tutte installate in questa specie di mensola e sopra questo mobile, però sono talmente raggruppate che viste così poi si vanno dietro tantissimi cavi, ma l'alimentazione, nonostante tenti sempre di farli sparire eccetera, però ce ne sono tanti, quindi sotto quel punto di vista penso che si possa dire che un po', se mi passa il termine, una mezza cagata questa stazione radio, ma proprio dal punto di vista estetico, dal punto di vista funzionale invece è molto molto molto performante. Però dal punto di vista, mi guarda là così, dice, sembra un magazzino con tanta roba buttata. Quindi esteticamente ti frego, anche vabbè funzionalmente, ma esteticamente i cavi non ci devono mai vedere, mai e poi mai, mai, li devi nascondere, vero Giulio? Certo che sì, tu pensa che io ad esempio il tavolino della televisione che c'è nella sala, gli avevo fatto un doppio fondo, o meglio un doppio schienale, e tutti i cavi, tutti, dico tutti, distintamente finiscono dentro nascosti. Noi pensiamo ad esempio a tutte le apparecchiature che ci sono attaccate, videoregistratori, registratori di ogni genere, poi ricevitori satellitari, tutte queste cose qua, tutti i cavi che ci sono, soprattutto perché ci sono i cavi per i collegamenti, come si chiamano, SCART, i cavi SCART, sono tutti nascosti dentro. Tu muovi l'immobile dal muro, l'unica cosa che vedi, sai qual è? Il filo che è attaccato alla presa, cioè quello di alimentazione, è la solita prolunga dell'antenna, basta, tutto il groviglio di cavi e cavetti che ci sono, tutti all'interno, tutti nascosti, con un doppio schienale praticamente, per cui non, e vabbè, è fattibile comunque, vabbè, ognuno naturalmente poi fa come crede e come desidera fare. Sì, indubbiamente la stazione che hai tu è molto performante, vorrei vedere già fra, con tutto quello che hai, con tutti i soldi che magari hai speso, che non sia forse performante, già lo vedo, e ci mancherebbe altro. Per quanto riguarda il discorso arredamento, tutto l'hai messo come ti è piaciuto e nessuno ti può dire niente, ci basterebbe, nessuno può criticare nella maniera più assoluta. Vai, Gioca. Sì, ciao Claudio, ma non puoi fare un paragone tra la tua stazione, Claudio, e la mia? Per una questione di quantità, qua attualmente ci sono collegate, tutte collegate, 15 antenne, 15 apparati radio, togliendo i portatili, se no guai, anzi no, sono 16, contandole meglio, sono 16 apparati, 16 apparati tutti collegati con la loro antenna, 6 gruppi di commutazione, il che vuol dire, tieni presente che i miei commutatori sono quelli dell'Alfa, che sono 6 commutazioni ognuno, quindi fai 6, 6, 12, l'altro, poi ci sono gli altri due e sono già 24 cavi che passano. Ogni apparato, eccettuato questo, c'ha sia l'alimentazione sia l'antenna, sono già due cavi. Gli altri ne hanno tutti 3 perché hanno la connessione dati collegata. Quindi se ti fai moltiplichi il numero degli apparati per almeno 3 cavi ognuno, il conto è presto fatto, è quasi impossibile nasconderli, a meno che non ci metti una parete davanti, però dietro c'è un agglomerato di cavi pazzesco. E poi questo non basterebbe, perché devi considerare il fatto che i cavi, benché siano di alta qualità, devono essere schermati uno dall'altro, schermati dalle USB, schermati dalle trasmissioni dati, e non li puoi tenere legati un tutt'uno, se no diventa un unico cavo, succede un casino che neanche ti immagini. È tutto più complicato, capito? Se fosse un apparato è ovvio, si vorrebbero 3 cavi e basta, ma da me non è esattamente così. Non so, a Carbonate ne avevo 21 collegate io, e stai attento, Giulio, se ben si ricorda, è venuto qualche volta, i cavi da me non si vedevano, perché io, come ha detto lui, dietro la base dove appunto lui ha fatto il lavoro, perché le basi sono ancora qua e sono sempre uguali, non cambia niente. Adesso anziché 21 collegate ce ne sono 12, più le due VHF e UHF sono 14, quindi cioè sono sì 14, però sono tutti sotto alimentazione, antenne non ce n'è collegate, ma sono tutti alimentati perché io li accendo tutti, quindi considera che i cavi di alimentazione ci sono, perciò ma se tu vieni qua non se ne vede uno, vedere un cavo, niente, mia moglie tutti i santi giorni passa la scopa, la va per terra, non c'è un cavo per terra, non c'è un cavo in bando, non c'è niente, capito? Quindi sulla base che Giulio ben conosce ci sono 4 MC60, 3 MB più 5, l'MC50, ci sono tutti i microfoni a tavolo, perché uso tutti i microfoni a tavolo, quindi no, ripeto, cavi non ce n'è. La commutazione, anziché essere a 8 come era prima, è a 4, l'ho dimezzata, però insomma il lavoro se lo fai bene sono sicuro che li nascondi i cavi, a parte devi separare naturalmente quelli quelli del computer, le cavità del computer, ma quella è un'altra cosa, ma io computer non ne ho, quindi non c'ho niente, non mi interessa. Vai Giulio. Ok, sì, ma certo, diciamo che oltre ad essere un hobby, per voi di più, magari per Gianfranco è un lavoro, si può dire anche questo, diventa un lavoro, perché adesso stavo pensando, Gianfranco, quando ci sono le brutte giornate con temporali eccetera, cosa fai? Devi staccare tutto quanto, oppure hai qualche dispositivo che ti stacca o solamente uno che poi si confluisce su tutti gli apparecchi? Come fai? Per me quello è un lavoro, No, dunque, allora bisogna specificare, allora ci sono, penso che siano poche stazioni che hanno un numero d'antenne così elevato come il mio. Guarda, dovrebbero essere 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Guarda, dovrebbe essere intorno alle 14 antenne che ci sono qua, di cui 5 solo sul traliccio, una a terra e un'altra su un secondo traliccio, quindi il numero è veramente spaventoso. Qua passa anche il Cellflex, che è un cavo un po' più grosso di un tubo dell'acqua casalingo, insomma no, è una situazione per le mie valutazioni che si può definire tra il medio alto e l'alto, quindi ti posso assicurare che piegare il cavo che ho io e non farlo vedere è un'impresa non da poco, non è scherzettiva. Ci sono dei cavi che vanno anche sott'acqua, possono andare grossi quanto un pollice, vai e piegali. Se ci dicevo, se gli apparati non fossero fissati, li vedresti muoversi a destra e a sinistra, quindi non è così semplice a dire. Rispondendo a Giulio, poi tutte le antenne sono commutabili, cioè sono tramite dei commutatori di alta qualità, perché gli altri non andrebbero bene, perché sono anche per alta frequenza. E quindi queste antenne sono tutte collegate, in pratica ogni singolo apparato ne puoi tenere accesi anche 6, 7 con la loro antenna. È quella la peculiarità di questa stazione, capito? Certo, ce ne potrebbe essere una o due con un commutatore con tantissime posizioni o con un gruppo di commutatori, però sarebbe una cosa che non ti permetterebbe di fare un ascolto come quello che serve a me e quello che faccio io. Tutto lì è proprio una questione di tecnica. Riprendi Giulio. Ok, ho capito. Sì, beh certo, quello sì. Sì, ma in caso di temporali, come fai? Tu sei tranquillo? Cosa fai per salvaguardare la stazione? Perché a quel punto lì il rischio mi sembra un pochino grande, qualche cosa dovrei pure fare in caso di temporali, eccetera, no? Guarda, le statistiche dicono grande o piccola l'antenna è sempre un oggetto che comunque su cui potrebbe cadere un fulmine. C'è gente, tra l'altro anche vicino a te, un fulmine è caduto, se ben ti ricordi, nella tua zona, una che ha tenuto le finestre aperte e stava lavando per terra e non c'era nessuna antenna. Quindi sai, sono cose che se devono capitare capitano, è una questione di fortuna. Per proteggere gli apparati dalle statiche, in questi casi quando ci sono temporali ci sono sempre, tutti i miei commutatori hanno una, chiamava così, una valvolina riempita di gas che in caso di scarica esplodono, praticamente esplodono nel senso piccolo, che fanno pof, tipo fusibile, e un millesimo di secondo, perché sono progettati così, questa pastiglia manda tutto a terra. Certo, se è un fulmine intero stai tranquillo che parte l'incendio, forse parto anch'io, perché sono sempre vicino alla stazione, mi auguro di no, ma anche questa è una eventualità che nessuno può escludere. Io quando finisco, diciamo, di usare la stazione, commuto tutto su zero e quindi va tutto a massa in protezione. Altro non posso fare, tecnicamente altro non si può fare. Il traliccio a terra, anzi i tralicci sono a terra perché sono due, le antenne sono con un'eccellente massa, altro non ti posso dire, poi quello che capita, capita, che possiamo fare. E per Claudio è la stessa cosa, se deve capitare non è detto che colpisca l'antenna, entra al contattore, come succede sempre qua a tutti, ti brucia il cancello, ti brucia tutta la centralina, parte l'impianto, però è già successo. purtroppo è così, o così o niente, o vai a abitare in un palazzo schermato o in una gabbia di Faraday, forse sei sicuro. Riprendi Claudia. Sì, riprendo, poi vi lascio. Stavo accanto a me, stavo guardando il telegiornale, molto un ragazzo che conosco lì all'ecocentro di via Valdetta, via Riosto, una roba da matti alle 4:30. Una roba da matti, si è ribaltato il muletto, stava spostando del materiale e gli è passato sopra il muletto. Vabbè, uno va a lavorare per rimetterci la vita, porca miseria. Va bene, no, io Gianfranco, sai, uso quello la Meritron, chiudo e arredo, metto anch'io, c'ho la posizione zero, metto, chiudo e basta, no, non è che ci siano tante cose a fare, ma ti ripeto, da quando sono qua le cose sono dimezzate tantissimo, ma quando ero a Carbonati avevo sempre la paura delle direttive, delle cose, qua non ho messo assolutamente niente, la V e la U e la J-Pol con la Mantova, basta, non voglio mettere altro, anzi la J-Pol la toglierò anche, lascio solo la Mantova, lascio la J-Pol, adesso vediamo, insomma, devo vedere ancora, intanto devo fare altri lavori, quindi mi serve quello spazio. Va bene, dai, io vi saluto, sono entrato per salutarvi già poco fa e sono voluto intervenire per appunto dire la mia su questo sistema antennistico e come si dice, tutti questi cavi e cavetti che passano. Va bene, ci sentiamo, ciao nuovamente Giulio, ciao Gianfranco e tutti quelli che stanno ascoltando, passo direttamente in QRT, ci sentiamo alle prossimine, vai Giulio. Ok, ciao Claudio, grazie per essere entrato di nuovo a salutare e ci sentiamo eventualmente magari domani se coincide. Ciao ancora, saluti in casa, vai Gioca. Sì, ciao Claudio, alle prossime, buona serata. Sì, lo sto guardando anch'io, ma non capisco queste, ne stanno succedendo tanti, però è anche vero che ne sto vedendo tanti, che anche stamane ho visto un punteggio che per chissà quale motivo nel pianale che regge le persone c'è una specie di legno, dei pezzi di legno fino, io non è che mi sono tutto macchiato, tutto bagnato, io non so se la gente possa lavorare con queste situazioni di sicurezza fatte proprio raffazzonate in quel modo. Poi è chiaro che scoppia l'incidente, scoppia cosa. C'è troppo azzardo, troppo azzardo si vede in giro, troppo. Riprendi Giulio. Ok, sì, beh certo, diciamo che c'è troppo disattenzione anche nel mondo del lavoro, in questo periodo ne sono morti parecchi, ne sono morti e purtroppo sono cose che succedono e continueranno a succedere sicuramente. Tornando al discorso temporale, io l'avevo subito qui, nonostante che era tutto spento qua, era arrivato un fulmine, mi aveva bruciato due baracchini, l'alimentatore e poi avevo anche un alimentatore lineare piccolino 747 che l'avevo pochissimi giorni, da allora non è più avuto. È arrivato il fulmine e più mi aveva bruciato anche il router del computer e io ero al lavoro, l'antenna era attaccata e evidentemente è arrivato il fulmine e mi ha bruciato tutta quella stazione lì, senza considerare che tra l'altro il fulmine era caduto in una casa che è lì a 200 metri in linea d'aria da dove sono io, che tra l'altro aveva anche incendiato il tubo di ingresso del gas, che proprio davanti alla, all'ingresso della porta, si era bucato, lì si era incendiato, perché erano le fiamme del gas, sono dovuti intervenire i pompieri, senza considerare poi tutto il danno che ha fatto anche in tutti i punti, tipo ad esempio la pasticceria che c'è qua, aveva bruciato il coso, come si chiama, quello che va alla corrente quando ti manca, adesso non mi ricordo come si chiama, e poi il meccanico che è a 800 metri da dove è calato il fulmine e gli aveva bruciato il compressore, tante altre persone hanno avuto problemi allo scaldabagno, ai frigoriferi, eccetera, eccetera. Per dirtelo, quando arriva una di quelle cose lì è micidiale, per carità, mai ne succedono di queste cose, ma perché sono veramente cose molto ma molto pericolose. Ecco perché ti ho detto come fai in caso di temporale, eccetera, per quello che ti avevo fatto questa domanda. Vai. Sì, Giuda. Purtroppo, diciamo, quelle sono cose che sono fuori dal nostro range di intervento, capito? Quello non chiede il permesso a nessuno, cade boh. È questione di fortuna, non c'è niente da fare. Per quello che riguarda invece il discorso che facevamo prima di fatalità, le fatalità le sono anche cercate, ci sono imprudenze varie e così via, sembrano di tutti i colori. E così, ogni tanto bisogna affidarsi alla provvidenza, Giulio, se no veramente non se ne esce. Certo che sì, diciamo che bisogna essere anche fortunati nella vita, che non succedano mai queste cose, per carità. Sì, poi ne ho saputo anche altre cose, tipo ad esempio c'era una volta qui a Sassari, lì a Latte Dolce, c'era un CB, Vittorio Luna Rossa, si chiamava, in frequenza, e il fulmine gli aveva addirittura spezzato il palo, il tubo dell'antenna gliel'aveva spezzato blu, e gli aveva bruciato anche il baracchino, perché ovviamente era lì, attaccata l'antenna e gli ha bruciato anche il baracchino. Per non pensare poi quello che una volta, anni fa, era successo anche nei campi di calcio che ci sono qui a dei punti, tra l'altro il proprietario, un nostro amico, e lì addirittura aveva spaccato l'albero, io mi ricordo come se fosse oggi, lì proprio nei campi di calcio, di punti, un fulmine aveva spaccato l'albero addirittura. Sono potenze micidiali, non c'è difesa, in questi casi non c'è assolutamente difesa da parte dell'uomo o gli altri. Purtroppo sì, purtroppo così non c'è difesa. Ma speriamo bene, Giulio. Ok, si sono fatte le 8:15, quindi anch'io devo scappare, Giulio. Buona serata, grazie per il QSO e ci sentiamo alle prossime, tanto lo sai, io sono sempre in ascolto. Scappo via che mi stanno anche chiamando. Buona serata, Giulio, alle prossime. Ok, Gianfra, grazie a te per il QSO, è stato un piacere, dai. Ci sentiamo eventualmente domani, se coincide, speriamo di sì, per cui faremo quattro chiacchiere anche domani, se Dio vuole. Ciao ancora, Gianfra, salutoni, alle prossime, buona cena quando la farai. Ciao, ciao, chiudo. Ok, ciao Giulio, alle prossime. Ciao Claudio, se sei ancora all'ascolto. Ciao Giulio, ciao, ciao anche a Gianfranco, alle prossime. Ciao, ciao, buonanotte e buona cena, ciao. Ciao, grazie altrettanto a voi famiglia, ciao, ciao.